Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Orso e Peter Miyakawa, registi del film Easy Living, La vita facile, al cinema da giovedì 24 settembre 2020. Ben trovati. Grazie, anche a voi. Come lo presentereste questo film? Il film è una commedia malinconica girato sulla frontiera tra Francia e Italia. Noi siamo cresciuti in quei luoghi lì, passando tutte le estati a Ventimiglia, tra Ventimiglia e Mestone. Siamo cresciuti negli anni 90 e quindi siamo nati negli anni 90, quindi eravamo abituati a vedere quella frontiera, ovviamente era Schengen, come qualcosa di inutilizzato, no? Era proprio una struttura metallica che stava lì ad arrugginirsi. E poi nel 2015, dopo i vari attentati, gli stati di emergenza, eccetera, le frontiere sono state chiuse di nuovo, ci sono controlli da tutte e due le parti e Ventimiglia è diventato un luogo di attesa, di speranza, di dolore di tantissime persone che sono bloccate lì e non possono varcare il confine. Quindi noi, cresciuti in quei luoghi, ci è venuta voglia di fare un film che raccontasse proprio di questo. Che chiave avete voluto dare al film proprio a questo proposito? Allora, volevamo appunto far vedere una storia singola che voler lanciare un messaggio, diciamo voler fare della retorica generale, invece volevamo appunto concentrarci proprio sull'intimità di una storia singola per approcciarlo tramite l'empatia. Quindi abbiamo voluto affrontare questo tema con questa commedia che comunque ha dei toni malinconici, ma è un film che viene raccontato tramite lo sguardo di un ragazzino che si ritrova, catapultato dalla città a Ventimiglia, e con uno sguardo quindi più puro, più incontaminato, guarda la situazione e si rende conto dell'assurdità di certe cose, di una persona che appunto è bloccata da una parte e non riesce a fare quei due metri frontiera e non ne capisce il motivo e quindi semplicemente per amicizia decide di aiutarlo. E quindi appunto abbiamo deciso di affrontare questo tema non con uno sguardo documentaristico, ma creando un'atmosfera nuova, quindi raccontando una Ventimiglia che fosse un po' un misto tra i ricordi della nostra infanzia e quello che sta succedendo adesso. Quindi per fare questo appunto abbiamo pensato proprio di farlo tramite lo sguardo di un ragazzino e questo ragazzino tra l'altro è nostro fratello più piccolo che più di ogni altro diciamo incarna i nostri ricordi di infanzia e quello che invece sta succedendo adesso. Com'è stata la lavorazione a partire dalla scrittura fino al rapporto con gli attori e le attrici? Beh, noi scriviamo in due, siamo due fratelli. Spesso accade nel cinema che le coppie di registi siano fratelli, secondo me perché comunque per lavorare insieme un ruolo come la regia deve esserci una sintonia e una condivisione sia di background che di la mentalità, ma persino anche il senso dell'umorismo, no? E quindi sì, Peter abbiamo lavorato a braccetto per tutta la lavorazione, quindi a partire dalla sceneggiatura appunto e poi anche nella direzione degli attori. Noi abbiamo concentrato molto, abbiamo cercato di lavorare molto sulla costruzione dei personaggi anche insieme agli attori. Questa storia appunto parla di un gruppo di persone molto diverse tra loro, quattro ragazzi di fatto, nel senso c'è questa Camilla, un'universitaria italiana che contrabbanda medicine e sigarette sul confine, che è costretta a portare suo fratello appunto una di queste volte a Ventimiglia, e quindi c'è il ragazzino, c'è un americano che insegna tennis al club alle signore di Ventimiglia, annoiato perché in verità vorrebbe fare il pittore. Questi tre personaggi molto diversi tra loro entrano in contatto con Elvis, che è un migrante bloccato al confine, per tutta una serie di coincidenze, comunque questi personaggi legano tra loro e si crea questa amicizia molto bizzarra che spingerà in questa avventura in cui insieme decidono di aiutare Elvis a cercare di cascare il confine. Noi quindi abbiamo lavorato tanto con gli attori, essendo persone molto diverse tra loro questi personaggi, ci è piaciuto anche esplorare proprio il fatto che si dovessero varcare e rompere dei confini tra loro, tra i personaggi. Questa tematica del confine non è solo il confine fisico di Ventimiglia, ma è anche il confine emotivo tra i vari personaggi tra loro. In quante sale? Dovrebbe uscire la prima settimana in una ventina di sale e poi a seconda la seconda settimana non si sa ancora. Però dovrebbe uscire un po' in giro per l'Italia, saremo a Milano, all'Anteo, a Roma in due sale, a Torino, Bologna, a Firenze, Padova, Trieste, ci sono tante, tante città dove uscirà il film domani. Easy Living, La vita facile al cinema da giovedì 24 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento ai registi Orso e Peter Miyakawa. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, un abbraccio. Con Pietro Liberati di Trent Film che distribuisce il documentario Genesis 2.0 di Christian Frey e Maxim Arbugaev al cinema da giovedì 24 settembre 2020. Pietro, ben trovato. Buongiorno a tutti. Come presenteresti questo film? Genesis 2.0 è un documentario dalle immagini straordinarie che abbiamo incontrato quasi per caso vedendo un'immagine, quella che è ritratta nella locandina, quella di due cacciatori di zanne di mammut nelle isole della Nuova Siberia. È un film che procede lungo due direttrici. Da un lato c'è la vicenda di questi cacciatori di zanne di mammut che operano ai limiti della sopravvivenza e della sopportazione umana in una terra inospitale per trovare queste zanne d'avorio di questi animali estinti per poi rivenderle in un mercato spesso nero, spesso irregolare, popolato da figure strane. Dall'altro c'è la vicenda di un manipolo di scienziati, tra cui bioingegneri e genetisti, che cerca di ricreare la vita in laboratorio. Esiste un filo tra queste due vicende, un filo che ovviamente non va svelato, ma che è veramente emozionante da scoprire, ma quello che è ancora più emozionante è come queste due vicende riescano a compenetrarsi a distanza, andando a toccare tanti temi sensibili che ci riguardano, che ci toccano nel nostro presente. Uno degli aspetti inquietanti è che l'azienda di cui stai parlando è sotto il controllo dell'esercito e del governo cinese. Esatto, una di queste aziende coinvolte in questa ricerca genetica opera con la mappatura delle tracce degli esseri umani viventi, quindi al di là di quello che è l'aspetto antropologico o l'aspetto di ricerca, c'è proprio una ricaduta su quella che potrebbe essere la vita di milioni di persone, perché stiamo parlando di milioni di mappature. E ce n'è un'altra di azienda che invece fa copie, clonazioni di animali domestici. Esatto, in Corea del Sud esiste questa azienda che è specializzata nella clonazione di cuccioli, cioè di pets, di animali da compagnia. Quando il proprio cagnolino purtroppo muore, clienti da tutto il mondo vanno in Corea del Sud e si possono far clonare il proprio cucciolo per il campo. Chiaramente il film va a esplorare anche le ricadute di natura etica e morale di questo genere di attività. Quali sono gli aspetti di questo documentario che più ti hanno colpito? Innanzitutto c'è una grandissima ricerca che arriva a una raffinazione grazie al montaggio, una ricerca dell'immagine che colpisce. Emerge la vita di questi cacciatori che è veramente ai limiti della sopravvivenza umana perché loro si imbarcano in un ambiente inospitale e nella ricerca di queste zanne di mammut, ma di fatto sanno già che una percentuale di loro potrebbe non tornare mai a casa. Poi sono in un ambiente in cui sono tagliati fuori dal mondo, non sanno che ne è della loro famiglia, le volte la perdono addirittura mentre sono via. E dall'altra parte c'è, ed emerge anche una storia di sfruttamento umano, c'è chi da questa ricerca, con una sorta di eccessiva ubris, vuole trarre non solo un profitto personale, ma anche una sua personale idea di progresso umano, perché chiaramente il film ha questo titolo abbastanza importante, abbastanza evocativo, Genesis 2.0, perché parla del fatto del mettersi al posto dell'onnipotente per creare la vita. Uno dei momenti più impressionanti è quando una donna di questa azienda che sta illustrando tutte le attività al gruppetto di visitatori, alla domanda sulle questioni etiche, non risponde guardando in faccia direttamente l'interlocutore. Esatto, questa espressione, come a dire, hai toccato un nervo scoperto, ma noi non ci siamo posti il dubbio, perché la nostra è un'azienda dedita alla ricerca e dedita anche al profitto, diciamocelo, però stai toccando un tema morale e i temi morali sono fuori dalla nostra portata, diciamo, del nostro consiglio d'amministrazione. Da un lato questa scena contiene una vaga ironia, lei non sa se ridere o essere seria a questa questione che le viene posta, dall'altro gela il sangue perché milioni di esseri umani vengono mappati per controllare la vita e questa cosa non viene tenuta in considerazione da un punto di vista appunto dell'etica. Che percorso ha fatto questo documentario nel mondo? Questo documentario è stato proiettato in moltissimi festival, vincendo un gran numero di premi del pubblico, anche in Italia è stato a Cinema Ambiente con grande riscontro, a Trieste, ha girato veramente un gran numero di festival, incontrando sempre il favore sia di giurie che di pubblico. In Europa è stato proiettato anche a Locarno, in festival più grandi. L'Italia è uno dei primi paesi in cui esce, diciamo, in circuitazione commerciale. In quante sale? Dato il momento non sappiamo ancora dire un numero di sale, diciamo che abbiamo fatto una serie di anteprime in alcune città italiane grandi, abbiamo fatto anteprima a Padova, Roma, Milano, Torino e abbiamo comunque tastato un grande entusiasmo degli spettatori a queste anteprime. Il momento chiaramente è un po' particolare per il cinema e quindi probabilmente il film avrà una vita lunga e alla spicciolata, soprattutto in rassegne dedicate a questo tipo di cinema, pubblico d'esse in Italia. E a questo proposito, per saperne di più, ci lasci dei riferimenti internet? C'è il nostro sito www.trendfilm.it e all'interno appunto c'è una scheda dove viene richiamato anche il dettagliatissimo sito originario che è stato messo su dalla produzione del film, che appartiene a uno dei due registi, che è Christian Frey, che è stato anche candidato all'Oscar per un film una ventina di anni fa, un fotografo. Genesis 2.0 di Christian Frey e Maxim Arbugaev al cinema da giovedì 24 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento a Pietro Liberati di Trent Film che lo distribuisce. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a voi. Arrivederci. Stefania Pusateri, coregista del documentario Soggetti Pericolosi, al Parco Pietro Rosa d'Ostia, domenica 27 settembre 2020. Stefania, ben trovata. Ciao, ben trovato a te, ben trovato a tutti e tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici. Ci presenti questo lavoro? Soggetti Pericolosi è un documentario indipendente che ha avuto la chiara scelta di non chiedere finanziamenti pubblici, una scelta politica, per poter permettere appunto di raccontare una storia, la storia di Davide Grasso, Maria Edgarda Marcucci, Fabrizio Maniero, Jacopo Bindi e Paolo Andolina nella maniera più trasparente possibile. Quindi ci racconterà l'iter, diciamo, processuale che Eddie e altri quattro ragazzi hanno dovuto affrontare dopo il loro rientro dai territori confederati della Siria del Nord-Est. Ecco, per chi non conoscesse la vicenda, la raccontiamo per sommi capi. Eddie e appunto gli altri quattro ragazzi che ho citato prima hanno partecipato a vario titolo, quindi da combattenti armati sia dalla parte dell'organizzazione civile rivoluzionaria a quella che è appunto la rivoluzione del Rojava, dei territori del nord-est della Siria, sicuramente contro ISIS, contro Daesh, a difesa dei valori del confederalismo, che ricordiamo appunto essere la democrazia diretta, il femminismo, l'ecologia. Una volta rientrati, dopo, tra l'altro, vari mesi dal loro rientro, si sono trovati a dover affrontare un processo. La Procura di Torino, nella persona della PM Emanuela Pedrotta, ha voluto dichiararli, ha provato a dichiararli soggetti pericolosi proprio in funzione del loro aver partecipato armi in pugno a questa rivoluzione. Diciamo che l'iter poi processuale non ha seguito un iter lineare, perché in una prima fase loro erano accusati proprio di essere al pari di terroristi per l'aver imparato ad utilizzare questi strumenti che non sono altro poi che residuati bellici dell'Unione Sovietica. Quindi la rilevanza dell'azione svolta dalle YPG e dalle YPG, quindi le unità di protezione popolare, le unità di protezione delle donne nella caccia all'ISIS viene completamente, diciamo, oscurata, sostenendo che i ragazzi appunto siano andati là soltanto per poi rintrodurre in Europa e in Italia una rivoluzione armata contro il sistema capitalista con le rudimentali basi che avevano appreso in Medio Oriente. Poi, in una seconda fase, questa cosa viene smentita quando Jack e Davide vengono esclusi dal processo, processo cui rimangono attenzionati però Maria Edgarda Marcucci, Jacopo Bindi e Paola Andolina, con il pretesto e con la scusa di necessitare di ulteriori appunto accertamenti per la partecipazione per Eddie e Jacopo ad un presidio musicale fuori da un locale a Torino in cui si rivendicava lo stipendio che il loro amico non percepiva da variati mesi e per Paolo la classica partecipazione fuori dal carcere che si fa appunto il giorno di Capodanno per dire a chi è dentro che non è solo e che non è sola. Quindi la pericolosità sarebbe dovuta a questa partecipazione. Nel marzo, a un giorno dall'anniversario del martirio di Lorenzo Orsetti, Maria Edgarda Marcucci è l'unica a ricevere il decreto e quindi l'unica ad essere poi considerata effettivamente soggetta pericolosa. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che Eddie non può partecipare ad assemblee pubbliche, non può frequentare i posti pubblici dopo le 18 di sera, ha un rientro notturno, ha tra l'altro l'obbligo di andare in giro con questo libretto rosso su cui qualsiasi personale delle forze dell'ordine può annotare note sul suo comportamento e le è stata revocata, diciamo, sequestrata la patente e il passaporto. Ora, in ragione di cosa? In ragione di una presunta pericolosità futura di Eddie, perché ricordiamo che questo non è un processo. Lo chiamiamo procedimento apposta perché diciamo che viene riesumata dal codice Rocco, che ricordiamo appunto nascere nel 1931, per cui la sua data di nascita ci dice tanto su quanto sia fascista questa misura. Viene appunto riesumata questa sorveglianza speciale, questa misura di prevenzione che prescinde l'accertamento giuridico di comportamenti de facto pericolosi. Quindi è mera supposizione di reato e questo ovviamente ci racconta chiaramente quanto l'intento della procura sia un intento, una strategia politica. È un passo ben oltre l'accertamento, appunto come abbiamo detto prima, di un reato. Viene utilizzata ovviamente per censurare qualsiasi tipo di dissenso. Come avete strutturato il documentario? In tre grandi filoni. Io e Valentina Salvi abbiamo pensato a introdurre tre temi che sono ovviamente la motivazione, poi che ha spinto i ragazzi, gli ex combattanti, a partire. Quale è intimamente, da cosa sono stati mossi, dalle loro ragioni più intime al partire. Poi c'è ovviamente il loro rientro, quindi l'aspetto procedurale, li abbiamo accompagnati in aula di tribunale e ovviamente c'è tutto il discorso sul rispetto delle martiri e dei martiri della rivoluzione, con il riferimento ovviamente alla figura di Lorenzo Orsetti, che ricordo appunto essere caduto a Baguzza il 18 marzo scorso, nell'ultimo avamposto dell'offensiva Daesh. E grazie appunto alle testimonianze dei protagonisti e degli avvocati, dei giuristi e del papà di Lorenzo Orsetti, riusciti, crediamo di essere riusciti a dare una visione quanto più trasparente e completa di quelli che sono non solo i valori che si sta cercando di portare avanti e che adesso sono sotto minaccia in nord-est della Siria, ma appunto cosa poi possiamo fare tutte e tutti in maniera collettiva per far fronte un pochino alle ingiustizie di questo tempo, come ci dice anche Lorenzo, come farci forza insieme, a come trovare la nostra luce, a come trovare possibilità di diventare un'alternativa. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più su questo lavoro? Noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama Soggetti Pericolosi il Documentario e poi abbiamo la nostra pagina su Produzioni dal Basso /Soggetti Pericolosi e lì ci sono ovviamente riferimenti per il crowdfunding, che appunto è la nostra unica fonte di sostentamento, appunto avendo scelto di non prendere fondi pubblici e perché pensiamo che l'orizzontalità sia uno strumento fondamentale per far sì che tutte e tutti possano essere partecipi di questo progetto, che è il progetto di chi ne vuole far parte. Soggetti Pericolosi in proiezione al Parco Pietro Rosa ad Ostia domenica 27 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Stefania Pusateri. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, Fede, grazie. Con Albert Bucci, direttore artistico della quinta edizione del Soundscreen Film Festival a Ravenna dal 26 settembre al 3 ottobre 2020. Albert, ben trovato. Grazie Federico, ben trovato a te e anche a tutti gli ascoltatori. Raccontiamo come sempre cos'è questo festival. Beh, intanto questo festival lo facciamo dal vivo, che non è affatto scontato né banale. Per fortuna adesso le condizioni ci sono e siamo di nuovo in sala a raccontare quello che è il grande cinema, ma anche il ruolo che la grande musica ha nel cinema, sostanzialmente. Questo è il nostro obiettivo, mostrando film, documentari e anche spettacoli particolari come le celebrazioni dal vivo. Quanti sono i lavori di questa edizione? Oh, quest'anno abbiamo, come dire, tenuto l'essenziale, per cui faremo i 10 film del concorso internazionale di Lunghi, i 20 corti, faremo un omaggio a Fellini e Alberto Sordi e faremo ben 8 film sonorizzati dal vivo, 4 lunghi e 4 corti di Aranzaglia, tra cui appunto partiremo con l'Inferno di Dante, chiuderemo con Nosferatu, passeremo attraverso Maya Deren e Germain Dulac, faremo il Vampire di Dreyer e la Gente di Kuznacker, queste nelle sonorizzazioni del vivo. Chi si occuperà delle sonorizzazioni? Sono tutti giovani musicisti, facciamo tutte cose, è tutta musica contemporanea, va dal noir rock degli Ovo di Bruno Dorel e Stefano Aros Pedretti, al jazz di Paolo Spaccamonti e Ramon Moro con Vampir, all'alternative rock di un gruppo di Bologna che sono di Headset, che sono i grandi Nosferatu, e poi un trio anche tra l'elettronica e il sax, il Kio Kio Kio, è una cover di elettronica sperimentale molto ambient a cura di Alessandro Baris. Tengo a precisare, non facciamo musica classica, diciamo che almeno penso il film dal vivo si immagina il piano come nella nostra immaginaria, il pianoforte, si immagina un po' di violini, un po' di musica classica, no, noi lasciamo carta bianca ai musicisti che facciano il loro lavoro, ma che facciano soprattutto una performance che sia ripetibile da questo punto di vista. Come sarà strutturato il festival per ogni singola giornata? Quest'anno dobbiamo essere un po' limitati, nel senso che purtroppo le prescrizioni sanitarie, il Covid, voi lo sapete tutti meglio di me, dobbiamo cercare di razionalizzare, per cui sostanzialmente faremo solo 2 proiezioni serali, appunto di solito un concerto e un concorso, un'anteprima nazionale, e non possiamo fare quasi nulla di pomeriggio, più che altro perché andare poi a sanificare, a controllare, a gestire è un'impresa molto macchinosa. Abbiamo visto anche nei festival che riescono a essere dal vivo, tutti i posti contingentati, cioè, ma si fa tutto, bisogna appunto cominciare a dire ok, quest'anno non faremo per esempio delle grandi prospettive, ma che bene. però insomma tutte le sere noi ci strutturiamo per poter ospitare le persone, abbiamo comunque 170 posti in sala e anche qualche replica online. Siamo dal vivo, ma comunque sulla piattaforma OpenDVD faremo la replica di qualche film del concorso internazionale, per esempio. I luoghi? Siamo fisicamente sempre al Palazzo dei Congressi del Centro Ravenna e queste 4-5 repliche online sulla piattaforma OpenDVD. Per la programmazione ci lasci tutti i riferimenti web? Molto semplice, www.soundscreen.org. Vi trovate tutte le info del programma. Quinta edizione del Soundscreen Film Festival a Ravenna dal 26 settembre al 3 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Albert Bucci. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a tutti, ci vediamo a Ravenna. Con Elisa Coco, una delle curatrici, per presentare la 12ª edizione del Sun Prefer Cake Bologna Lesbian Film Festival online su OpenDDB dal 19 al 26 settembre 2020. Elisa, ben trovata. Ciao, ciao Federico, ciao Radio Onda Rossa. Spieghiamo a chi non conoscesse il festival di cosa si tratta. È un festival di cinema lesbico che è nato a Bologna 13 anni fa. Appunto abbiamo fatto 12 edizioni, questa è la 12ª, ed è un festival che è stato ideato da Luchi Massa, che era un'attivista lesbica molto conosciuta, diciamo, nella nostra comunità, che purtroppo è morta nel 2016, insomma, in modo molto prematuro. Ed è stata una delle nostre interlocutrici sempre per il festival. Esatto, esatto. Abbiamo fatto spesso delle interviste direttamente con Luchi, qui da voi, e però insomma, purtroppo adesso abbiamo cercato di continuare il suo lavoro e il lavoro di tutte le compagne con cui poi insomma realizzavo questo festival, perché è una bella macchina da tenere su. E quindi è un momento in cui noi cerchiamo di promuovere la circolazione di opere che è difficile vedere in canali mainstream, di vedere al cinema o in televisione, e quindi dare l'opportunità insomma alle persone che in Italia sono interessate a queste tematiche di approfondirle. E oltre a questo, diciamo, oltre alla parte di contenuto, il festival è anche molto un'esperienza proprio di vita, di contatto, di relazione. Infatti quest'anno abbiamo scelto questa formula online per tenere la continuità, diciamo, nel nostro progetto, però sappiamo bene che appunto l'esperienza di un festival è anche, non so, guardare i film, ma anche guardare, e quindi insomma abbiamo pensato di lanciare un'idea per quest'anno, il festival sarà online, ma vediamo insomma tutte le compagne e i compagni di ritrovarsi in gruppi privati, in piccoli gruppi, quindi persone che già si frequentano in maniera tale da non aumentare, diciamo, l'esposizione al contagio, ma comunque di non rinunciare alla dimensione collettiva del vedere i film. È tutt'altra esperienza che vederli da sole davanti allo schermo. Quante saranno le opere presentate in questa edizione? Questa edizione sarà ovviamente piccola rispetto a quello che facciamo normalmente in sala, e avremo in tutto 13 film che sono divisi in un unico lungometraggio narrativo, 2 documentari lunghi e 10 corti, che spaziano dalle animazioni a appunto un documentario breve a delle fiction, con una programmazione che come sempre viene un po' da tutto il mondo. Cerchiamo di avere anche questo sguardo nella selezione di film, cioè di non dare spazio solo a produzioni occidentali fatte negli Stati Uniti o in Europa, perché è ovvio che insomma sono le realtà che hanno più accesso alle risorse, ma invece di cercare anche voci che insomma vengono da altrove e raccontino anche altri tipi di vissuti e di esperienze. E quindi tra i film che abbiamo selezionato quest'anno in particolare Vibrancy of Silence, che è appunto uno dei documentari, perché appunto riprende anche un po' il tema del dare voce, cioè non del dare voce, del dare spazio a voci che già esistono, quindi noi non diamo voce a nessuno, le voci ci sono, però fare in modo che queste voci circolino. E quindi questo film è molto bello perché è una conversazione tra 5 artiste africane, proprio anche sul senso del loro agire artistico come donne, con un approccio femminista e anche intersezionale, che quindi lega il tema del genere anche con quello appunto della costruzione della razza. Data la dimensione web, ci sarà modo di interagire con le autrici? Sì, noi abbiamo pensato un momento di presentazione del festival, che sarà il 19, quindi lanceremo il festival online con una diretta sulla nostra pagina Facebook, e quello sarà un momento anche di interazione, perché ci saremo noi organizzatrici e le compagne che hanno curato la selezione, quindi del programma del festival, e quindi insomma noi racconteremo un po', ma ci sarà anche un dialogo appunto con il pubblico che vuole fare delle domande o chiedere delle insomma, curiosità. Poi abbiamo delle piccole introduzioni ai film che abbiamo pre-registrato con le registe, che trasmetteremo appunto prima di ogni film, e quindi delle pillole di insomma, un minuto in cui la regista saluta, insomma, presenta il film e lo introduce. E poi abbiamo degli altri momenti di dirette live che sono più legate alle presentazioni di libri, perché poi avremo appunto una parte di eventi collaterali, che è la presentazione di due graphic novel e un libro di poesia. C'è un sito internet, giusto, per seguire la programmazione? Assolutamente, sempre.festival.com, il nostro sito, poi c'è la nostra pagina Facebook dove appunto ci saranno anche le dirette, quindi anche lì ci saranno tutti gli aggiornamenti, e per chi vuole è possibile anche iscriversi alla newsletter dal nostro sito. Ricordiamo che il festival è totalmente gratuito, una scelta deliberata, diciamo, una scelta politica che abbiamo voluto prendere quest'anno, vista la situazione e vista insomma anche la precarizzazione che la situazione sanitaria ha determinato, soprattutto insomma per certe soggettività, e quindi abbiamo deciso di farla gratuita, perché ovviamente abbiamo bisogno di sostegno, e quindi c'è la possibilità di fare una donazione per chi può, insomma ci sarebbe molto utile il sostegno insomma anche economico, in maniera tale da avere risorse per l'edizione del prossimo anno. Sempre Fair Cake, Bologna Lesbian Film Festival, 12ª edizione online su OpenDDB dal 19 al 26 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento ad Elisa Coco, una delle curatrici. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto! Viva il lupo e grazie a voi per lo spazio. Buone visioni! Con Khaled del Centro Documentazione Palestinese per presentare la terza edizione della rassegna Filastin al Centro Sociale Occupato Autogestito Ex SNIA a Roma dal 25 al 27 settembre 2020. Ben trovato. Grazie. Ci presenti questa iniziativa? Sì, è un'iniziativa di 3 giorni che si terrà appunto all'Ex SNIA e al Parco dell'Energia il 25, 26 e 27 settembre, quindi venerdì, sabato e domenica. Il primo giorno ci sarà una presentazione generale dell'iniziativa di 3 giorni e la presentazione del libro L'Eco delle Catene, una raccolta di scritti dal carcere di Ahmad Sada. E durante la sera ci saranno 2 proiezioni. La prima è di un documentario di nome Gaza The Man's Life, e tratta della situazione della striscia di Gaza, soprattutto alla luce degli avvenimenti degli ultimi anni, e nello specifico tutta quanta la questione delle iniziative organizzate ai confini, che sono state chiamate le marce del ritorno. E la seconda proiezione della serata è The Walls of Daesh, è sempre un documentario prodotto sempre in Palestina, che tratta della storia di un campo profughi che si trova a Betlemme e prova a raccontarne la storia tramite le scritte, i graffiti sulle pareti delle sue piccole vie. Tutti questi documentari sono proiettati in collaborazione con il Festival Alar, che si tiene in Sardegna ogni anno, e quest'anno, nonostante le varie difficoltà, è riuscito a tenere la sua 17ª edizione, e quindi questi film di questi 3 giorni sono tutti quanti della 17ª edizione del festival. Il giorno seguente, sabato 26, ci sarà un incontro con Monica Maurer dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, e si parlerà della Palestina, come viene dipinta e come viene raccontata la Palestina tramite la produzione sia palestinese che estera. Poi seguirà un incontro con il professor Wassim Dahmash, che è docente di lingua e letteratura araba ed è parte della giuria del festival Al-Ard. Per la giornata del 26 ci saranno 2 proiezioni. La prima è del documentario Jaffa, che parla di Jaffa, della città costiera palestinese, prima del 48 e prima della sua pulizia etnica e della cacciata dei suoi abitanti. Raccoglie varie testimonianze ed è particolarmente interessante. E poi ci sarà anche la proiezione di un corto che ha vinto il primo posto per la sezione dei corti del Festival Al'Art e il terzo premio di Cine Fondazione di Cannes 2019. Il regista di questo corto è Wissam Al-Jafari, l'avevamo ospitato un paio di anni fa a Roma, dove avevamo proiettato già un paio di suoi corti. Questo corto racconta molto brevemente la storia di due ragazzi alle prese con le scadenze di una competizione musicale. E non entro troppo nei dettagli perché la trama è molto stringata e ovviamente giustamente essendo un corto. Poi la sera, sempre di sabato, ci sarà un'esibizione del gruppo musicale Hudud. Domenica 27 settembre ci sarà la proiezione di un altro documentario di nome Hummus, che ruota attorno all'appropriazione di tutta quanta quella che è la tradizione locale palestinese, araba, partendo da dei presupposti di monopolio da parte di Israele che si va ad appropriare. Viene fatto l'esempio e ritorna all'interno della trama e si parla anche dell'appropriazione della cultura gastronomica locale, però è principalmente un esempio e vengono fatti anche altri esempi e si ripercorrono varie tappe. La maggior parte di questo documentario è girato a Gerusalemme, nella città vecchia di Gerusalemme. Poi sempre domenica ci saranno due laboratori, un laboratorio per bambini e un laboratorio di cucina, che ovviamente tutte e tre le giornate sono organizzate in maniera tale da rispettare le varie precauzioni sanitarie, quindi anche per quello nasceva l'idea di organizzarlo all'aperto per riuscire a ripartire con le attività stando il più possibile in sicurezza, e in caso di maltempo è già stata contemplata sempre all'interno dello stesso contesto una delle soluzioni per andare avanti con l'attività nonostante il maltempo, e quindi ringraziamo nuovamente la mia per la disponibilità. Ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? I vari dettagli sono tutti quanti sul sito internet centrodocumentazione.p di Palermo Est, altrimenti c'è la pagina Facebook che effettivamente viene aggiornata e verrà continuamente aggiornata in caso di eventuali cambi di programma, che però per il momento escludiamo. La pagina Facebook è Centro Documentazione Palestinese. Per chi vuole inviamo anche degli aggiornamenti tramite il canale Telegram, e dovrebbe essere riportato il canale Telegram sul sito internet. Terza edizione della rassegna Filastin al centro sociale occupato autogestito ex SNIA a Roma dal 25 al 27 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento a Khaled del Centro Documentazione Palestinese, che è una delle strutture che organizza. Un abbraccio, un in bocca al lupo, risentirci presto. Grazie mille, a presto. Con Fabrizio Ferrari, uno dei curatori del Silent Rome Festival a Villa Farinacci dal 24 al 27 settembre 2020. Fabrizio, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Tu ti occupi della sezione cinema, raccontaci un po'. Beh, innanzitutto ti faccio una premessa, ecco, questo è un nuovo festival, silent proprio perché è un festival tutto in cuffia, quindi silenzio assoluto. Si sta nella Villa Farinacci, ci sono diverse location, c'è una kids area, un book corner, questa Apecar Cinema, ovvero un Apecar con uno schermo messo sopra un 3x2, quindi abbastanza grande, dove noi ogni sera presenteremo dei film extra usciti in sala, quindi quindi abbiamo selezionato questi titoli, 5 per l'esattezza, per questo nuovo Festival di Roma che, tengo a precisare, ha vinto il contributo dell'Estate Romana di Roma Rama. E quindi sono contento di potervi dedicare a questo nuovo festival che è, insomma, partner del RIF, Roma Independent Film Festival, che io ormai organizzo da più di 19 anni. Come era nato tutto? Ma il Silent è un'associazione culturale che si chiama Roerso Mondo, che già ha organizzato in Sardegna un festival del genere, e anche a Roma, a Capannelle, anni fa insieme abbiamo organizzato delle proiezioni con musica, insomma, e quindi ecco, diciamo, ci sono 4 canali dove in 2 si potranno ascoltare temi differenti, musicali, un canale dedicato per il cinema e l'altro canale per gli incontri, per le letture del Book Corner. Poi, diciamo che il programma è suddiviso così: il pomeriggio dalle 5 alle 8 letture e kids area per i bambini, mentre invece dalle 8 alle 10 la proiezione del film e dalle 10 in poi fino a mezzanotte l'una le performance live di alcuni musicisti, tra cui Michele Moi, che è uno degli organizzatori, quindi l'idea, diciamo, è sua e di Giulia Campagna. Io mi sono occupato di curare insieme agli altri amici del RIF la sezione cinema. Quindi siamo contenti di partecipare e speriamo, insomma, che non piova, perché parte del festival si terrà all'aperto. I titoli sono 5, cominciamo con Rosa di Katia Colgia, con Lunetta Savino, candidata come miglior attrice ai David di Donatello, e abbiamo in sala la regista. Poi abbiamo Bangla di Paim Bouyan, anche questo vincitore dei Nastri d'Argento come miglior commedia nel 2019, e anche qui abbiamo il regista in sala. Poi a seguire La Terra dell'Abbastanza dei Fratelli di Innocenzo, e poi ultimo film è Gatta Cenerentola di Alessandro Rack, che sarà anche lui nostro ospite, quindi ci sarà la possibilità, dopo ogni presentazione di film, di poter incontrare i registi, domande e risposte, e quindi cogliere un po' le varie tecniche di come è stato girato, le varie idee, la sceneggiatura, insomma, ecco, abbiamo la possibilità di avere incontri con i registi. Per tutte le informazioni, quali riferimenti web ci sono? silentromefestival.it, e poi abbiamo creato già delle pagine web sul sito con tutto il programma e anche i canali social, Facebook, Twitter e Instagram. Prima edizione del Silent Rome Festival a Villa Farinacci dal 24 al 27 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori per quanto riguarda la sezione cinema, Fabrizio Ferrari. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, grazie ancora. Con Stefania Pusateri, co-regista del documentario Soggetti Pericolosi, al Parco Pietro Rosa d'Ostia, domenica 27 settembre 2020. Stefania, ben trovata. Ciao, ben trovato a te, ben trovati a tutti e tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici. Ci presenti questo lavoro? Soggetti Pericolosi è un documentario indipendente che ha avuto la chiara scelta di non chiedere finanziamenti pubblici, una scelta politica, per poter permettere appunto di raccontare una storia, la storia di Davide Cazzo, Maria Edgarda Marcucci, Fabrizio Maniero, Jacopo Bindi e Paolo Andolina nella maniera più trasparente possibile. Quindi ci racconterà l'iter, diciamo, processuale che Eddie e altri 4 ragazzi hanno dovuto affrontare dopo il loro rientro dai territori confederati della Siria del Nord-Est. Ecco, per chi non conoscesse la vicenda, la raccontiamo per sommi capi. Eddie e appunto gli altri 4 ragazzi che ti ho citato prima hanno partecipato a vario titolo, quindi da combattenti armati sia dalla parte dell'organizzazione civile rivoluzionaria a quella che è appunto la rivoluzione del Rojava, dei territori del nord-est della Siria, sicuramente contro ISIS, contro Daesh, a difesa dei valori del confederalismo, che ricordiamo appunto essere la democrazia diretta, il femminismo, l'ecologia. Una volta rientrati

noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama Soggetti Pericolosi il documentario, e poi abbiamo la nostra pagina su Produzioni dal Basso /soggetti pericolosi, e lì ci sono ovviamente riferimenti per il crowdfunding, che appunto è la nostra unica fonte di sostentamento, appunto avendo scelto di non prendere fondi pubblici, e perché pensiamo che l'orizzontalità sia uno strumento fondamentale per far sì che tutte e tutti possano essere partecipi di questo progetto, che è il progetto di chi ne vuole far parte. Soggetti Pericolosi in proiezione al Parco Pietro Rosa d'Ostia domenica 27 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Stefania Pusateri. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, Fede, grazie. Con Valentina Paravano di Spin-off per parlare dell'Arena Cinema Parchetto Salario dal titolo Il Cinema Oltre, dal 14 al 27 settembre 2020. Valentina, ben trovata. Ben trovato a te, ben trovati a tutte e a tutti. Ci presenti quest'arena? Noi siamo un'associazione culturale nata alla fine del 2016, Spin-off, terzo municipio di Roma. La nostra associazione è nata intorno ad un progetto di festival di cinema documentario rivolto agli studenti delle scuole superiori. Quindi in questi anni ci siamo occupati di cinema e scuole fondamentalmente, perché il nostro obiettivo è avvicinare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze al linguaggio audiovisivo, ma soprattutto aprire delle riflessioni sui temi contemporanei. L'Arena del Cinema Oltre sarà un'arena triennale, perché rientra nelle attività di Roma Rama, quindi l'estate romana, ed è dedicata all'Agenda 2030, in particolare a tre goal dell'Agenda 2030. Quest'anno la lotta al cambiamento climatico, il prossimo anno la parità di genere e fra due anni alla lotta alle disuguaglianze. Questo un po' in sintesi. Nell'ambito dell'arena ci sono diverse attività. Il pomeriggio apriamo con un laboratorio di animazione stop motion per bambine e bambini curato da Munchausen Lab, che è una società molto giovane che però ha all'attivo tanti lavori nell'ambito dell'animazione e si è detta ben felice di collaborare con noi in questa iniziativa. Poi alle 19 ogni giorno ospitiamo una conversazione con un professionista, una professionista del cinema, che ci racconta il suo lavoro e anche un po' i segreti del mestiere, insomma anche aspetti divertenti, insomma, o aneddoti legati alla professione. E prima della proiezione serale c'è sempre ospite un'associazione ambientalista che a livello locale, nazionale o internazionale si occupa di ambiente. Sono passati a trovarci Legambiente, è passata la LIPU, WWF, Greenpeace e anche però associazioni più piccole come il comitato Porro Lambertendi, che cura il parco che ci ospita e di cui possiamo anche parlare, perché questo parco è veramente un luogo magico, direi. E anche di recente che è entrato in attività come parco, o sbaglio? Sì, questo parco, che appunto si chiama L'Isola che c'è, è di proprietà dell'AMA, che ha accanto da alcuni anni un'isola ecologica. In compensazione ha praticamente realizzato questo parchetto. Il parchetto è stato chiuso per tanti anni, quindi era un parco proprio a compensazione, che a un certo punto l'AMA ha dato al municipio. Il municipio ha affidato in gestione ad un comitato cittadino formato appunto da cittadine e cittadini che abitano in quel quartiere e che se ne prendono cura, lo aprono, e questa arena è la prima grande attività che si fa. Insomma, speriamo che nel tempo il parco possa ospitare anche altre iniziative, perché è un luogo veramente bellissimo, pieno di alberature, con tante panchine, le fontanelle, insomma veramente è un piccolo miracolo. Quanti sono nel complesso i titoli proposti nell'arena? Sono 10, perché dal lunedì al venerdì facciamo cinema e nei fine settimana ospitiamo dei concerti